tetto. Non mi basta più il sole per stare sempre contento. Non mi basta più andare sulla costa col mare. Non mi basta osservare il tramonto né toccare il vento. La mia catena porta sempre solo un nome. Non importa quando cambi, importa solamente come. Se travolta da una frana, la mia terra e la mia pelle, pure il fango che rimane adesso supera l'addome. Qui siamo fragili sia uomini che donne. Neanche con la pesce regge più queste colonne. O lavori oppure spargi per la mafia poche canne. E chiudi la tua vita come fabbriche marchionne. Oppure scappi, sappi che niente concludi. Perché anche che lavori e che migliori i tuoi studi, la tua terra è qua sotto, lei ti reclama di fatto. Tu puoi stare già certo che avrà bisogno di aiuti. Sono sempre l'emigrante che ora viene dal sud. Voglio svoltare la vita per tornare qui giù. Ma se lascio la mia terra è perché povero è il sud. Ho bisogno di più, devo andare più su. Sono sempre l'emigrante che ora viene dal sud. Voglio svoltare la vita per tornare qui giù. Ma se lascio la mia terra è perché povero è il sud. Ho bisogno di più, devo andare più su. Troppa gente non ci pensa e mette alla propria coscienza. Ci vogliono altri eroi come Dean e Clarenza. Intanto se ne vanno e abbandonano sti paesi. Mentre i focolai accesi si spengono per mancanza. Per esigenza la gente mette gas. E per entrare al nord non ti basta neanche il pass. Perché troppa intolleranza ci divide, ci recide. Chi decide che ti uccide fa il politico come un boss. E la mia terra più spine di un fico in India. E per l'effetto serra pure il clima adesso cambia. Prima c'era il sole, adesso vedo nella nebbia. Sto nella parte povera accecata dalla rabbia. L'Italia è rotta, divisa in crisi di soldi. Vedo troppi lombardo che mangiano come ingordi. Divido nel paese perché seguono pretese e buttano le offese a ciò che fece Garibaldi. Restiamo i pezzi di un palazzo che è distrutto, che è rotto dal soffitto fino al piano di sotto. Non servono i politici che hanno la testa vuota. Io li manderei a tirare i carri da Gasparri a quota. E la Sicilia è la tomba di Borsellino, di Falcone e Livatino. Ancora giacciono sepolti. Più di un padrino qui vuole fare casino, comandando un assassino che colpirà nuovi voli. Sono sempre l'emigrante che ora viene dal sud. Voglio svoltare la vita per tornare qui giù. Ma se lascio la mia terra è perché povero è il sud. Ho bisogno di più, devo andare più su. Sono sempre l'emigrante che ora viene dal sud. Voglio svoltare la vita per tornare qui giù. Ma se lascio la mia terra è perché povero è il sud. Ho bisogno di più, devo andare più su. Sono sempre l'emigrante che ora viene dal sud. Voglio svoltare la vita per tornare qui giù. Ma se lascio la mia terra è perché